Questo giorno di Simone Spezia. Ancora in risalita i rendimenti dei titoli di Stato, BTP decennale al 2,2%, lo spread sfonda la soglia dei 180 punti. Fu un reclutatore di jihadisti a Milano, arrestato in Sudan il terrorista tunisino Moez Fezzani. Prime nomine di Trump, un moderato come capo di gabinetto, riuniti i ministri europei, anche gli Stati Uniti al centro delle discussioni. I segnali di speranza dalle zone colpite dal sisma, riaprono le scuole oggi ad Amatrice e Norcia. Slot machine, i sindaci scrivono al governo sulle regole e il rischio di vanificare le ordinanze per limitarle. Manfredoni in Puglia contro Energas, vincono in no al referendum per i depositi di GPL e a un investimento da 80 milioni di euro. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno, @radio24.it. In apertura dunque parliamo dei mercati, soprattutto con l'andamento dei titoli di Stato. Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Allora ricominciamo con questa tendenza che si era arrestata da tempo e invece adesso ha ripreso ad irrigidirsi la curva dei rendimenti sui titoli di Stati, il segnale che le vendite sulle obbligazioni governative non si fermano e anzi si stanno accentuando. Soprattutto questo fenomeno riguarda l'Italia, dove la variabile politica in questo periodo lo sta facendo da padrona. Allora, lo spread fra BTP e Bund, il differenziale di rendimento fra il decennale italiano e quello tedesco, ha superato quota 180 punti base, un livello che non si vedeva da 2 anni, e il rendimento del titolo decennale sfonda il 2,2% ai livelli di giugno 2015. E si sta separando naturalmente la tendenza rispetto a quella spagnola, dove lo spread con il Bund tedesco è fermo a 125 punti base. Questa fibrillazione sul mercato obbligazionario ovviamente si riverbera anche in borsa. Questa mattina a Piazza Affari è successo un movimento molto vistoso. Milano era partita con un rialzo di oltre un punto, in linea con le altre piazze europee. Poi non solo ha azzerato presto i suoi guadagni, ma addirittura invertito la rotta, arrivando a perdere un punto percentuale. Le vendite riguardano un po' tutti i settori, quelli soprattutto sensibili ad un possibile rialzo dei tassi di interesse, che riprenderà in particolar modo negli Stati Uniti in dicembre con la Federal Reserve. I peggiori titoli in questo momento sono Fiat, Italgas, Terna, Brembo, perdono fra i 2 e i 3 punti percentuali. Molta pressione è tornata anche sulle banche, che sono piene di titoli di Stato italiani. Fa eccezione Monte dei Paschi, che invece sulla scia di una speculazione tutta sua guadagna stamattina 2,5 punti. Segnalo anche che continua a scendere l'euro e a rafforzarsi il dollaro. Il rapporto di cambio adesso è a 1,0782, è tutto. E grazie Deborah Rosciani per questo aggiornamento. Torneremo sui mercati come sempre alle 13:30. Ci occupiamo di terrorismo internazionale adesso, perché è stato arrestato in Sudan un uomo condannato per il reclutamento di jihadisti in Italia. È stato arrestato in Sudan Moez Fezzani, conosciuto come Abu Nassim e considerato tra i reclutatori dell'ISIS in Italia. Il terrorista tunisino tra il 1997 e il 2001 ha fatto parte di una cellula del gruppo salafita per la predicazione del combattimento, con base a Milano, che reclutava uomini da inviare nei paesi in guerra. Nato a Tunisi nel 1969, Fezzani, considerato militante di Al-Qaeda in Afghanistan, era rimasto in carcere fino all'assoluzione del 2012 da parte del Tribunale di Milano, che lo aveva in quell'occasione giudicato un ideologo e non un combattente. Il Ministero dell'Interno ne aveva comunque decretato l'espulsione, avvenuta dopo una rocambolesca fuga, perché considerato soggetto pericoloso. Soltanto dopo, nel 2013, quando Fezzani era ormai lontano dall'Italia, la Corte d'Appello ha ribaltato il primo verdetto, condannandolo in secondo grado a 6 anni di reclusione per associazione a delinquere ed associazione con finalità di terrorismo. Nel 2014 la condanna definitiva. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restano in primo piano le elezioni americane. Donald Trump ha nominato Rhys Priebus alla guida della Casa Bianca, capo di gabinetto e il presidente del partito, un uomo considerato moderato, molto ragionevole, sicuramente una scelta migliore di Steve Bannon, che era il capo della sua campagna elettorale, ma che era anche considerato un uomo molto estremista, non aperto al dialogo. Era il capo di una casa editrice chiamata Breitbart News, che rappresenta l'estrema destra del paese. Dunque la prima scelta concreta di Donald Trump è una scelta diciamo, per il dialogo, è una scelta per poter cercare di andare avanti. Su altri fronti non ha fatto scelte rassicuranti, ha confermato che vuole stracciare l'accordo sull'ambiente che si è raggiunto a Parigi faticosamente nel dicembre dell'anno scorso, già nei primi 100 giorni della sua amministrazione. Non sarà una cosa facile. Il presidente Obama invece ha dovuto stracciare il TPP, l'accordo per liberalizzare il commercio nell'area asiatica. Obama, tra l'altro, in partenza per il suo addio all'Europa, arriverà domani mattina in Grecia, poi andrà in Germania. Mario Pratero, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. I ministri degli esteri europei sono riuniti per discutere anche di questo. In assenza di contatti diretti con Donald Trump, l'Unione Europea ribadisce la collaborazione con gli Stati Uniti. Tutti hanno sottolineato la necessità di lavorare insieme in un momento in cui la nostra partnership con gli States non è in discussione, ha ribadito questa mattina l'alto rappresentante Federica Mogherini dopo la cena informale di ieri dei ministri degli esteri, assente il britannico Boris Johnson. È importante non avere pregiudizi su Trump appena pochi giorni dopo le elezioni. È un momento di opportunità sia per il Regno Unito sia per l'Unione. Le parole del ministro degli esteri inglese, che oggi con i colleghi si riunirà a Bruxelles per fare il punto su sicurezza e difesa. Mi aspetto un meeting con decisioni concrete, ha spiegato la Mogherini. All'ordine del giorno, oltre al piano per la difesa, la Turchia e i negoziati per l'adesione all'Europa, la Siria e i rapporti con i partner dell'Est. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla cronaca italiana con la morte del rapper diventato famoso con X Factor. Forse un mix di droga ed alcol unito a qualche problema cardiaco congenito di cui non era a conoscenza. Potrebbe essere questa la causa della morte di Vittorio Boss Andrei, in arte Cranio Randagio, il rapper romano di 21 anni morto dopo una festa alla quale aveva partecipato nella notte tra venerdì e sabato in un appartamento nel quartiere residenziale della Balduina a Roma. Ora sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Previsti anche i test tossicologici, cui risultati non saranno comunque immediati. Quando incontri qualcuno tanto giovane non immagini che la sua vita potrebbe finire così presto, ha scritto il musicista Mika, che lo aveva selezionato nella sua squadra di X Factor l'anno scorso. Cranio Randagio stava ora per far uscire un album. Io volerò via, perché nel cielo c'è molto di più. Tra i brani, Petrolio, che state sentendo, dai versi quasi profetici. Distrutta dal dolore, la madre del giovane, che avrebbe compiuto 22 anni a dicembre. In un'intervista ha detto: voglio che sia fatta chiarezza, perché qui non è chiaro nulla. So solo che mio figlio è andato ad una festa e non è più tornato. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al punto politico di giornata, iniziando dal referendum, naturalmente. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, forte degli ascolti televisivo, Matteo Renzi è convinto che la maggioranza silenziosa degli italiani sia con lui, sia quelli che votano altri partiti, sia quelli che non votano più, ma bisogna coinvolgerli, dice il Premier, e per farlo occorre uno sforzo di tutti, un impegno deciso e sorridente di ciascuno di noi. Il Premier fa il boom di ascolti a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, 7.600.000 spettatori, pari al 13% di share. Una presenza però contestata dall'opposizione, e il centrodestra si ricompatta in questo campo dopo le divisioni di piazza del weekend. Renato Brunetta di Forza Italia presenta un'interrogazione parlamentare in commissione vigilanza RAI per chiedere spiegazioni sulla scelta di ospitare il Premier senza contraddittorio con l'audience salito anche grazie alla presenza dei Coldplay, e Brunetta chiede un intervento formale alla GCOM. Matteo Salvini della Lega chiede invece a Fabio Fazio di invitarlo e di scrollarsi di dosso la nomea di conduttore asservito al governo, altrimenti, minaccia Salvini, occuperemo lo studio. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito. Veniamo al fronte della politica economica. L'Italia torna in deflazione. A ottobre, certifica l'Istat, i prezzi sono scesi dello 0,1% rispetto a settembre e dello 0,2% su base annua. I dati mostrano così nuovamente tendenze deflazionistiche dopo la crescita dei prezzi di settembre. A far precipitare nuovamente l'indice dei prezzi in campo negativo sono soprattutto i beni energetici, alimentari non lavorati e servizi ricreativi. E il 2016 potrebbe chiudersi con i prezzi in discesa, come spiega il responsabile del servizio Prezzi Consumatori dell'Istat, Federico Polidoro. quest'anno è stato un anno caratterizzato da fenomeni deflattivi nell'ambito dei prezzi. Abbiamo avuto prima di ottobre altri 7 mesi in cui c'è stato un segno meno nell'andamento dei prezzi al consumo su base annua. Quindi in realtà è già tutto il 2016 che è caratterizzato da un fenomeno di deflazione, tant'è che se a novembre e dicembre non dovessero variare i prezzi, il 2016 si chiude con un meno 0,1. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per quanto riguarda più puramente la politica economica, è notizia di poco fa che dovrebbe tornare a breve in Commissione Bilancio il decreto fiscale che era atteso oggi in aula. Tra le norme approvate, infatti, due non avrebbero la necessaria copertura. Una, a quanto si è appreso, sarebbe la deroga di 2 anni al regime dei minimi per chi eccede la soglia del forfè per importi fino a 15.000 euro e l'ulteriore passaggio in Commissione rischia di far slittare i tempi dell'Assemblea. Il via libera al provvedimento era atteso per domani. Veniamo alle cronache, dalle zone colpite dal terremoto, un punto con Andrea Viali. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Dunque, oggi la campanella è tornata a suonare per molti studenti dei comuni colpiti dal terremoto. A Norcia, ad esempio, per quelli delle superiori, le lezioni sono riprese in un prefabbricato che si trova alle porte della città, dove in mattinata è arrivata in visita anche il ministro dell'istruzione, Stefania Giannini. A rientrare in aula sono stati poi anche gli alunni di Arcuata che sono ospitati con le loro famiglie negli alberghi di San Benedetto del Tronto. Qui per loro è stata messa a disposizione una scuola da poco ristrutturata. Le attività scolastiche sono riprese anche ad Amatrice, ad Ascoli Piceno e a Macerata, mentre ripartiranno soltanto la prossima settimana in altri comuni come Preci e Camerino. Diciamo, questo è un modo per tornare alla normalità, anche se c'è da dire che nel frattempo la terra continua a tremare, visto che una nuova forte scossa di magnitudo 4 è stata avvertita nella notte nella zona tra Umbria, Lazio e Marche. Molta naturalmente la paura, ma non ci sono stati nuovi crolli, Simone. E grazie dunque ad Andrea Viali. Siamo in linea con Rosella Tonti, che è preside dell'Istituto De Gasperi Battaglia di Norcia. Buongiorno professoressa, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Allora, come vanno le cose? Benissimo, siamo molto contenti di questo progetto, si è realizzato veramente un sogno per i nostri ragazzi perché sono tornati a scuola e soprattutto sono tornati in un luogo sicuro che li ospiterà tutto il giorno, non solo per formarsi e fare cultura, ma per socializzare, per organizzare numerose attività. Allora, dove sono ospitati i ragazzi al momento? I ragazzi sono ospitati appunto in alcuni moduli, 17 classi, e queste classi vedranno la presenza la mattina degli studenti del secondo grado, delle scuole superiori, il pomeriggio della primaria e delle medie. E quanti ne sono al momento? Sono tutti i ragazzi della zona? Diciamo che non ci siete riusciti, no? No, la popolazione scolastica è di circa 800 alunni, dei quali 600 sono presenti oggi. 200 stanno aspettando appunto una sistemazione modulare abitativa e solo quando avranno quella praticamente potranno rientrare in sede, insomma, a Norcia. Sì, quindi insomma, comunque oggi primo giorno di scuola tutto sommato ce l'avete fatta, no? Insomma. No, ce l'abbiamo fatta e siamo davvero tanti, e quindi siamo poi soprattutto entusiasti di questo nuovo progetto e finalmente possiamo iniziare a lavorare e a ricostruire. E tra l'altro ho visto un po' dalle agenzie, leggendo, che ha chiesto alcuni insegnanti hanno chiesto il posto in tenda, no? Perché gli tocca far da pendolari, sì, da molto lontano. Veramente, diciamo che spesso insomma noi non apprezziamo tanto quello che ci abbiamo. Il nostro sistema scuola ha permesso che oggi fossero tutti presenti i docenti in servizio presso il nostro istituto e alcuni entrati in ruolo appunto con la riforma che vengono da fuori hanno chiesto addirittura appunto 2 posti tenda all'interno delle tende. All'interno delle tende per poter stare più vicini ai ragazzi, per sì, poter lavorare, sì, lavorare meglio con loro. Per sostenere più da vicino, sì. Allora, io la ringrazio, grazie a Rosella Tonti, appunto, che è preside dell'Istituto De Gasperi Battaglia di Norcia, alla quale auguriamo un in bocca al lupo, una buona fortuna per i prossimi mesi e per quest'anno scolastico, che sarà sicuramente complicato e diverso per tutti quanti. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo già iniziato, come avete sentito, sostanzialmente il nostro consueto giro per l'Italia, proseguiremo subito dopo il traffico. Su due vicende ci concentreremo oggi, la prima è quella di Manfredonia. Che cosa succede a Manfredonia? Fredonia in Puglia, che la Energas, una grande azienda, vuole costruire dei depositi di GPL e il comune dice no. Ieri ha fatto un referendum per dichiarare la sua contrarietà, appoggiata tra l'altro anche dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. C'è in ballo un investimento di 80 milioni di euro e il via libera è già arrivato dal Ministero dell'Ambiente. E poi andremo a Lecco per parlare in realtà di un tema più generale, quello delle slot, delle regole che vengono messe dai sindaci per impedire, insomma, soprattutto per regolare gli orari delle slot machine. I sindaci hanno scritto al governo dicendo: occhio, che i nuovi regolamenti che state varando rischiano di vanificare tutto il nostro lavoro. Traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'andamento dei titoli di Stato, con il BTP decennale che sale sopra il 2,2%, lo spread che sfonda la soglia dei 180 punti. Abbiamo parlato dell'arresto di un terrorista che fu reclutatore di jihadisti a Milano, è stato preso in Sudan. Abbiamo parlato delle prime nomine di Trump e abbiamo parlato, come avete sentito, della riapertura delle scuole in una parte delle zone colpite dal terremoto. Proseguiamo dunque il nostro giro per l'Italia dopo essere stati a Norcia e ci spostiamo a Manfredonia e siamo in Puglia, siamo in linea con il sindaco Angelo Riccardi. Sindaco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Allora, ieri si è votato per un referendum, che chiaramente è un referendum consultivo tra i suoi cittadini, che lei ha voluto indire. Per cosa? La Energas, un'azienda che appunto si occupa di gas, vuole installare nel vostro territorio 12 serbatoi per il GPL, capacità complessiva 60.000 metri cubi. Ci sono ovviamente anche tutte le opere che sono connesse a tutto questo e lei ha voluto far votare i suoi cittadini, lei è contrario. I cittadini sono venuti alle urne, l'affluenza mi pare che sia stata poco sopra il 50%, con un'altissima percentuale, oltre il 90% di no. Le chiedo questo, sindaco: avete una disoccupazione al 50%, qua si parla di un investimento di 80 milioni di euro, perché no? No, innanzitutto, diciamo, la partecipazione al voto è stata alta, quindi 52%, il no è stato al 97%. Ma il tema è proprio questo: l'impianto è un impianto, è un deposito ed è funzionale solo agli interessi, diciamo, chiaramente dell'imprenditore, non ha ricadute sul piano occupazionale. Stiamo parlando di impianti, diciamo, tecnologicamente avanzati sul piano del controllo, si possono anche gestire in remoto, non hanno, diciamo, un impatto occupazionale notevole e la città questo lo ha capito. Non vogliamo essere ricordati, diciamo, come la città che ha l'impianto più grande d'Europa di GPL, vogliamo essere ricordati invece per l'opera straordinaria che è realizzata a Manfredonia, tre soldi in un parco archeologico, quello di Siponto. Noi abbiamo altre vocazioni, abbiamo già sbagliato nel passato, abbiamo ospitato un'azienda di Stato dell'ENI con tutte le ripercussioni che paghiamo ancora oggi sul piano della salute, e non ce la sentiamo di continuare su una strada che non è quella che noi abbiamo disegnato per noi e per le prossime generazioni. Allora, è vero, Riccardi, che come dire, nel lungo termine, no, l'occupazione prevista a questo impianto è, mi pare, di 70 persone. È vero anche che in un termine un po' più medio, appunto, ci sono tutti i lavori connessi e via dicendo, che oggettivamente portano sviluppo, no? Guardi, io ripeto quello che le ho detto prima, noi stiamo parlando di numeri assolutamente visibili, al di là dell'impatto che può avere l'investimento sul territorio, ma questo, diciamo, è un impatto assolutamente che si consuma nell'arco della realizzazione dell'impianto. Noi abbiamo bisogno qui di investimenti durevoli, abbiamo scelto vocazioni diverse, abbiamo scelto una vocazione turistica che avevamo abbandonato qualche tempo fa. Le voglio ricordare, ma lo dico con grande orgoglio, che noi abbiamo investito 25 milioni in opere di recupero dei beni culturali più importanti della nostra città, lo dico sempre perché questo è un dato sul quale dobbiamo riflettere, abbiamo un'opera che è quella di Tre Soldi nel Parco Archeologico di Siponto, che in questo momento segna in termini di presenze il più alto numero delle opere visitate in Puglia, superiamo anche Castel del Monte. Noi non riteniamo che quell'impianto sposi le vocazioni del nostro territorio, poi mi deve consentire. Lei ha detto che questo impianto ha ottenuto il decreto, diciamo, autorizzativo del Ministero dell'Ambiente. È vero, con un buon 54 prescrizioni al seguito, il che fa, diciamo, presagire che ci saranno una serie infinita di aspetti che vanno tutti definiti in un progetto, diciamo, più dettagliato. Sì, sì, no, questo è vero, cioè ha ottenuto il via libera dal Ministero e il Ministero gli ha detto sì, il via libera te lo do, però devi fare una serie di cose. Questo intende lei quando parla di prescrizioni. Queste prescrizioni sono 54 e naturalmente il progetto andrebbe modificato sulla base di quello che dice il Ministero dell'Ambiente. Questo, no, è il punto. Appunto, gli elementi sono tali e tanti che dovrebbero portare alla cautela, come tra l'altro nessuno dice che stiamo parlando di un'area di grande pregio paesaggistico e ambientale, dove ci sono vincoli comunitari SIC e ZPS rispetto alla procedura utilizzata. Insomma, qualche elemento di perplessità c'è rispetto a questo. Noi abbiamo fatto ricorso al TAR insieme alla LIPU e intendiamo depositare un esposto all'Unione Europea, perché non è possibile che un'azienda privata possa realizzare un mega deposito in un'area di pregio ambientale, mentre in un'area industriale come quella di Manfredonia qualsiasi iniziativa è preclusa perché ci sono vincoli SIC e ZPS, e quindi la procedura amministrativa si complica ancora di più. Noi non siamo per il no a tutti i costi, sì. Noi siamo perché le valutazioni devono essere fatte e devono essere di merito rispetto ad ogni iniziativa. No, perché qua come potrai immaginare, su queste vicende abbiamo anche gli ascoltatori che si dividono. C'è chi dice questo sindaco è molto più intelligente di voi giornalisti di Confindustria che pensate solo ai soldi, e qualcun altro invece ci dice ci sono sindaci, e fa riferimento a lei in questo caso, dice che cavalcano le finte paure del popolo solo per i voti. Cosa risponde a questo? Ah, guarda, io sono un sindaco a fine corsa, io sono stato rieletto, sono al mio secondo mandato, governo secondo le linee votate dalla città e dal consiglio comunale. Noi abbiamo avuto un mandato chiaro dai cittadini e il referendum lo conferma. Non ho, diciamo, bisogno di altro consenso per andare chissà dove. La questione è posta male fin dall'inizio. Sì. L'imprenditore aveva, secondo me, l'obbligo di misurarsi con la città sul piano del confronto e non lo ha fatto. L'imprenditore ha utilizzato, diciamo, vecchi metodi per cercare di acquisire un consenso. Lei dice anche è anche stata gestita male, diciamo. Ma anche l'imprenditore aveva, diciamo, l'obbligo di fare passaggi, sì, secondo me, di maggiore consapevolezza rispetto, diciamo, a temi delicati. Ha cercato invece di sponsorizzare la squadra di calcio, ha cercato di fare, per la verità, operazioni assolutamente discutibili. Su questo, diciamo, non c'è nessuna volontà di porre barriere, di dire no a tutti i costi. C'è la volontà piuttosto di capire di che cosa stiamo parlando e soprattutto di capire dove va una comunità che si è messa in cammino per cercare altre strade quando ha visto che l'industria di Stato ha commesso su questo territorio danni irreparabili. Io le dico questo, sì, perché brevemente, noi stiamo facendo un'indagine sulla nostra, diciamo, comunità, sullo stato di salute, e i dati che stanno emergendo sono dati assolutamente preoccupanti. Credo che anche questo, cioè, in qualche modo abbia inciso inevitabilmente. La ringrazio, grazie Angelo Riccardi, sindaco di Manfredonia. Abbiamo un altro primo cittadino dall'altra parte dell'Italia, il nostro giro per l'Italia ci porta qua, ci porta a Lecco. Siamo in linea con Virginio Brivio, che ne è il sindaco. Buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E anzi, bentornato ai nostri microfoni per parlare di che cosa? Del tema delle slot, sul quale ogni tanto torniamo. Nelle ore scorse è arrivata quello che è stato definito l'assalto dei tabaccai, che dicono denunciamo i sindaci che vietano i giochi. Voi siete tra le città che hanno fatto un'ordinanza per far sì che siano limitati i tempi nei quali si può giocare alle slot machine, ci siano delle distanze precise tra i locali che ospitano le slot machine e i luoghi che potremmo definire sensibili, come per esempio le scuole. Nel frattempo però è stata scritta una lettera dai sindaci che hanno fatto ordinanze come la sua. Ricordo che c'è la sua città, c'è, tanto per fare un esempio, Bergamo, e ne abbiamo parlato, una lettera al governo, perché da quel che abbiamo capito c'è nel prospetto di regolamento del Ministero dell'Economia un problema che potrebbe di fatto cancellare, eliminare, vanificare le vostre ordinanze. Ho capito bene? Sì, esatto. In buona sostanza mentre viene da parte della legge finanziaria e dagli allegati ipotizzate in buona sostanza una maggiore determinazione rispetto a quelle che sono le sale gioco propriamente intese, ci sarebbe invece un'estensione, una liberalizzazione per quanto riguarda l'installazione di macchinette presso locali che svolgono anche altre funzioni, in particolare ovviamente quelle di somministrazione, quelli dei bar, eccetera, pensando che questo sia un meccanismo, una sorta di controllo sociale, quindi di ordinarietà dove sono collocate, potesse fungere in qualche modo da deterrente. L'esperienza nostra ci dice un po' esattamente invece il contrario, che proprio la loro diffusione ordinaria fa cadere un po' magari quei vincoli, quelle attenzioni che invece sono ciò a cui i sindaci con queste ordinanze stanno premendo, quindi non un divieto generalizzato ma una tutela delle fasce più deboli ed evitare l'esasperazione del gioco in buona sostanza. Quindi si gioca un po' su questo delicato equilibrio tra la libertà economica e certamente il fatto che persone adulte possono fare le valutazioni che vogliono, ma anche la tutela di quello che è un bene essenziale come la salute, che non è solo in gioco quando ci sono patologie chiare e conclamate, ma anche quando ci sono potenziali dipendenze, come oramai, ahimè, le strutture sanitarie stanno attestando. Sì, tra l'altro, i tabaccai hanno promesso azioni legali nei confronti dei sindaci, e in realtà il suo comune su questo fronte una battaglia giudiziaria l'ha già vinta, no, sindaco? Come lei ricordava, noi abbiamo fatto una ordinanza che è stata anche, confermata al massimo livello dal Consiglio di Stato, che ha articolato l'orario, ha compresso l'orario dalle 10 alle 24, mentre dal punto di vista di quello che sono le distanze, noi ci siamo richiamati alla legge regionale di 2 anni fa, che prevede un po' questa distanza in quella che sono la pianificazione di tipo edilizio e urbanistico. Sì. Quindi sono due tematiche, un po' diverse. Noi sugli orari, in quanto abbiamo ritenuto che, nelle prime ore del mattino, anche rispetto un po' ai flussi scolastici, eccetera, e rispetto alle ore della notte, della tarda notte, appunto, il cadere un po' magari, dei freni inibitori potrebbe, rispetto a certi tipi di situazioni, soprattutto di maggiore fragilità della persona. Certo, ci rendiamo conto che non sono misure da sole sufficienti, necessarie, c'è anche un'operazione di prevenzione, di sensibilizzazione, che peraltro vorremmo fare anche insieme ai tabaccai. Non c'è mai stata una logica contrappositiva o di demonizzazione. Io faccio solo questo esempio, proprio prendendo spunto. Brevemente, sindaco, siamo quasi in chiusura. Però mi sembra una cosa interessante. In questi mesi sono stati messe sul mercato nelle confezioni delle sigarette non solo le solite frasi molto pesanti rispetto al rischio del fumo, eccetera, ma addirittura le fotografie, un po' macabre della persona che viene coperta dal lenzuolo bianco a seguito di un infarto, eccetera, così. Allora mi chiedo, ma perché dobbiamo arrivare a questi livelli? Cioè di arrivare ad un uso tale e distorto anche di quello che è il gioco, per poi correre a ripari con misure magari anche di tipo comunicativo così forti, così violente. Io penso che i sindaci con responsabilità, come su tanti altri temi, anche in questo si mettono non a fare una demonizzazione complessiva, nessuno intende negare che queste cose ci siano. Perché appunto, come diceva, c'è anche un fronte di libertà economica, però tutto questo va disciplinato, dice lei. È anche degli stessi operatori il compito che questo non si traduca in nel lungo periodo o anche nel breve, ahimè, anche in una sorta di ritorno complessivo di immagine negativa. Allora penso che qualche alleanza positiva sia possibile farla. La ringrazio, grazie Virginio Brivio, sindaco di Lecco, per essere stato con noi. Una pausa alla borsa e poi avremo un breve passaggio al nostro giro per l'Italia, che ci porterà a Roma per parlare di Mafia Capitale. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli ancora in risalita, i rendimenti dei titoli di Stato, BTP decennale al 2,2%. Fu reclutatore di jihadisti a Milano, arrestato in Sudan il terrorista tunisino Moez Fezzani. Prime nomine di Trump, un moderato come capo di gabinetto. Segnali di speranza dalle zone del sisma, riaprono le scuole oggi ad Amatrice e Norcia, la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Vi avevamo promesso che avremmo parlato di Mafia Capitale nel nostro giro per l'Italia. Saremmo andati a Roma, in realtà siamo andati un po' lunghi con i tempi. Me ne prendo tutte le responsabilità. Come sapete, la puntata è lunedì, è un po' più corta. C'è Mario Platero.